FM. questa è la musica dei Van Halen, la canzone era Black and Blue, siete su Rock FM, la voce è sempre quella del DJ Edo Rossi, sono le 18.04 in diretta. Allora, il numero SMS è 335-100-7777, edo@rockfamily.it. Allora, vengo un po' a rispondere ai messaggi giunti finora alla linea SMS. Allora, c'è chi si scaglia contro chi ha intenzione di chiudere Santa Rock FM, grazie Livo66, poi un saluto a Ilaria da Bagnara, immagino sia in Emilia Romagna, che dice ciao a tutti i rocker che come me cercano di studiare sotto le note di Rock FM, vive le Zeppelin, grazie Ilaria, poi un saluto a Shandy, un abbraccio al limoncello a Shandy, poi un saluto anche a Don Fefo che mi chiede se insomma ho interesse ad avere le due austriache a bordo del suo taxi, no grazie Fefo, va bene così. Poi un saluto anche a Brutus che mi chiede come va la prevendita dei Rage Against the Machine, e non ne ho la più pallida idea, so che ci sono ancora biglietti per il 14 di giugno, di conseguenza se hai intenzione di comprare i biglietti sei ancora in tempo. Mi chiedi Ricochet che musica fanno, naturalmente ti stai riferendo a quello che sarà il concerto che si terrà il 23 di maggio al Jamba Live di Rapallo, ci saranno i Ricochet e gli Obo. I Ricochet fanno una specie di sound alla Pearl Jam, un po' più esteso, insomma, non dimentichiamo che tra l'altro con i Ricochet noi condividiamo il cantante, eh. E, insomma, no, sono molto bravi, fanno del bel suono, poi andateveli a sentire su MySpace, insomma, ci sono degli echi anche alla Fade No More, eccetera, insomma, una band molto interessante. Hanno suonato anche ad Arezzo lo scorso anno, quindi insomma, una band assolutamente interessante da tenere d'occhio. Poi un saluto a Infante che dice ma i Sex Pistols fanno un concerto gratis a Torino? Certo, caro Infante, saranno l'11 di luglio al Traffic Free Festival appunto di Torino e si esibiranno gratuitamente, insomma loro magari sa che li prendono, però si esibiranno gratuitamente perché tutto il festival generalmente è gratuito. Poi un saluto anche a Frankie che dice Edo, la musica che trasmetti è poesia, mamma mia, grazie, troppo gentile. Poi dispiace che una radio così chiuda, ci manda un grosso salutone. E poi tra l'altro JB da Vaiano Prato dice sono il batterista di una band, diciamo rock punk garage anni 70, non è che dici il titolo, vabbè lo dirò, si chiamano theheadbangers.org, l'avevo già fatto, comunque. Poi un saluto ad Alessia invece che dice i Pearl Jam ci volevano proprio nel grigiore di Milano, sì che in realtà su Milano c'è questo tempo un po' incerto, eccetera. Bene, siete su Rock FM, dicevo 335-100-7777 la linea SMS, a breve verrò a rispondere anche agli altri messaggi. Tra l'altro prima quando ho parlato dei Guns N' Roses, ora non per ripetermi eccetera, però ho dimenticato di dirvi che in realtà a giugno uscirà un disco che sopra riporterà il nome Guns N' Roses, ma non si tratta del tanto atteso Chinese Democracy, ma bensì di una ristampa del Greatest Hits che uscì già qualche tempo fa, in occasione tra l'altro della festa del papà in America che si tiene a giugno, a differenza della nostra che si tiene a marzo, così per regalare, così come idea regalo per tutti i papà rock and roll. Ma questa in realtà confesso che non l'ho capito un granché. Comunque non importa, popolo di Rock FM, pronti ad alzare le corna al cielo, siete pronti, via! We'll be right back. consider it to me. You know I call you, I call you on the telephone. I'm only hoping that you're home, so I can hear you when you say those words to me and whisper so softly. CC, pick up that guitar and I'm trying to read you. Dirty to me, questi sono i Poison, canzone non trasmessa a caso perché volevo rendervi partecipi del fatto che ieri insieme a un po' di amici della band porca miseria, non mi ricordo come si chiamano, scherzo, dei Beverly Hills, ci siamo divertiti a gemmare come spesso succede il mercoledì sera al Rock and Roll di Milano e ci siamo detti sull'uscio potremmo fare tal Dirty to me e siamo andati giù, l'abbiamo fatto, è stato veramente molto divertente. Ne approfitto per salutare e abbracciare tutti loro e tutti coloro i quali incontro il mercoledì alle jam session del Rock and Roll di Milano, insomma assolutamente imperdibile, anche se fa caldo è bello lo stesso andare lì, gemmare, suonare, insomma è il vero spirito del rock and roll. E a proposito di questo, infatti, cosa sarà la Nottedo? Voglio dire, tutti qua fanno la notte dove si autodedicano, autocelebrano, si tolgono dei denti perché magari hanno scelto di fare la nottata nella quale proprio andare in onda ancora più senza limiti, anche se insomma qui a Rock FM siamo assolutamente liberi di poter fare cosa ci pare, quindi la farò anch'io, ve lo ricordo ancora. La notte tra martedì 27 e mercoledì 28, a partire da mezzanotte sino alle 4, alle 5, ora dobbiamo ancora decidere. E ci sarà anche qui una sorta di jam session, ho invitato un po' di amici e insomma, oltre a trasmettere naturalmente la musica che proviene direttamente dalla mia personalissima collezione di dischi, insomma porterò anche un paio di strumenti e gemmeremo e ce la canteremo e suoneremo fino a notte fonda, finché non ci cacciano. Bene, allora, questa è Rock FM ancora per un po', la voce è quella di Edo Rossi, sono le 18:18, vorrei rispondere a un po' di messaggi giunti alla linea SMS, un saluto particolare a Giancarlo che mi ha detto delle cose molto belle, insomma mi fa molto piacere che insomma apprezziate comunque il nostro spirito in questi giorni che, come ben potete immaginare, non è assolutamente semplice tirare sullo slider del microfono e parlare, però come sapete noi ci abbiamo sempre creduto nel rock and roll e quindi è questo l'atteggiamento che abbiamo deciso di avere, ossia insomma barba fatta e migliore dei vestiti, come ha detto anche in un'intervista. Oggi utilizziamo il nostro vestito migliore per andare alla sedia elettrica e ci andremo a testa alta. Ora il nuovo dei Motley Crue. Tonight is gonna be a fun. Saints of Los Angeles, questi sono i Motley Crue in attesa del disco che arriverà a giugno. Giugno, io sapevo luglio, però poi Claudia mi ha detto giugno e quindi noi ci mettiamo qua e lo ascoltiamo, lo aspettiamo e poi ce l'ascolteremo, o no? Allora, un saluto a Sergio da Milano che dice: ah, che Tris, Van Halen, Emerson e Pearl Jam, sei un grande, domani Sergio, sei tu un grande che apprezzi. Poi un saluto anche al Fanello che insomma ha fatto un paio di... Scusate, ogni tanto, visto che qua c'è un clima abbastanza familiare, e ne approfitto per invitare tutti gli ascoltatori di Rock FM che vogliono mantenersi in contatto con il con la community che abbiamo per 18 anni chiamato Rock FM, vi diamo questo indirizzo internet www.rockfamily.it sul quale poterci incontrare e poter rimanere in contatto anche dopo la chiusura della radio. E naturalmente spesso accade, insomma, quando incominciano dei rapporti familiari, incomincia, sai, il messaggio inizia a diventare anche un po' più intimo, eccetera. E insomma, ieri sera c'era un po' di aggregati della Rock Family al rock and roll, quindi insomma arrivano messaggi un po' così che dai, alla fine è anche inutile che li legga, quindi faccio semplicemente un saluto al grande Fanello. Poi altri saluti, per esempio, a RBX da Como, Scream for me Rock FM. Saluto anche dal Gheppo che dice: Dio ti benedica, fratello Ligure. Gli Iron e anche gli Iron. Quando fai una edocena al mare, ma caro Gheppo, adesso non lo so, magari un po' più in là, insomma, se sarete sempre dell'idea di voler venire a cenare con me, per adesso ce n'è una che è fissata per il 6 di giugno a Santo Stefano a Macerata, comune di Cascina, provincia di Pisa, il 6 di giugno, con in occasione del concerto dei Rock Pit, dove sarò giù appunto con la mia band tributa anni 90, nella quale se arrivate verso le 20, una cosa del genere, ci facciamo una tavolata, una bella cena, diciamo quattro beninate, e poi si fa ovviamente del buon rock and roll. Poi arrivano altri messaggi, un saluto a Crash Diet da Carpi, anche lui giustamente partecipa a rockfamily.it e dice: visto che domani parto per Londra, se becco in giro Brian May lo sequestro e lo porto in Italia. No, guarda, se becchi Brian May vai là e dirgli: ciao, io sono di rockfamily.it, della community italiana di Rock FM, gli dai la mano e gli dici: sei stato un signore, grazie comunque, e te ne vai. O se no, vabbè, se poi ovviamente lui ti dice perché non viene a suonare la chitarra nei Queen, ovviamente stai pure lì, ecco, intendevo quello, perché naturalmente ricordiamo che insomma ancora un ringraziamento enorme al grande Brian May, il chitarrista di Queen, che ieri ha risposto a un appello appunto lanciato dai dagli utenti di rockfamily.it, l'appello a cercare di salvare Rock FM mandandolo a vedere il filmato che è stato registrato in Piazza Liberty in occasione del concerto della Rock FM Stars Band venerdì scorso, dove appunto è stato fatto un vero e proprio una vera e propria richiesta a mani giunte con una base di sottofondo di Bohemian Rhapsody. Comunque il video è su YouTube, oltre a essere stato linkato sui vari su tutti i vari MySpace, sia quello di Pane, Burro e Rock and Roll, sia sul mio blog edorossi.blogspot.com. d'altro mi pare di aver visto che anche sul MySpace degli Iron Maiden, probabilmente qualcuno di voi ce l'ha buttato di nascosto, eh. Poi allora un altro saluto a Cristian da Lucca che dice: non sapete che bello essere in auto e incrociare gente che ti guarda male mentre poghi da solo. Ma dove la trovo un'altra radio così? Cristian, quando stai andando in macchina, però se devi pogare da solo, poga da fermo almeno, perché almeno è un attimo più sicuro. E poi giustamente Makoto e Ococcio da Pisa dicono: Edo, per non pensare alla chiusura di Rock FM, invito tutti a usare il mio metodo, vino e potta. E allora tutto quello che posso fare io è darvi della potta di Nashville con le Nashville Pussy. Mamma, questa era bellissima. Come on, come on su Rock FM. Nashville Pussy, questa era Come On, Come On. Allora, poi più tardi magari vi do anche qualche notizia, poi magari parliamo anche un po' di musica, insomma, se lo volete fare. Tra l'altro oggi, oggi giorno, messaggio promozionale per tutte le band, eh? Stanno arrivando un sacco di messaggi di band che vogliono essere nominate. Che dire, allora, per tutti i fan dei Negrita, questa sera a Prato, in provincia di Firenze, al Red Reef di Bologna 201, zona Piazza del Mercato, suonano i Viaggio Stereo Tribute Band ufficiale dei Negrita. Portano il 43, il 42, il 45 e il 43 di scarpe. Passiamo ad Alessandro da Pontedera invece. Ma aspetta, c'era un'altra band che chiedeva. Aspetta, no, ma io ragazzi, poi tra l'altro vi capisco da matti, cioè lo capisco che cioè quando si può, sta chiudendo la radio, via via, promozione al massimo, però no, io vi capisco perfettamente, solo che è ovviamente un po' un casino. Tra l'altro avete dei nomi veramente difficilissimi, c'è questa band che è heavy metal band da Udine, che saranno a Torino al Dragma Metal Fest il 28 giugno, ciao, purtroppo non potrò ricordarlo, che niente, si chiamano Devadatta, hanno un myspace.com, Devadatta CBNSS, che cazzo ragazzi, un po' più semplice, grazie. Comunque in bocca al lupo anche a voi, poi un saluto al grande Tango 10 e a tutta la famiglia, grazie Tango 10, ci ricordiamo di te, sei un bravo pecciotto, Poi un saluto a TD5, grandissimo, grazie per la presenza. Poi sono contento che chiudete così non mi incazzo più quando perdo la frequenza, che te devo dire, guarda che da un certo punto di vista. Un saluto anche a Lara che dice ciao mitico Edo, ma ciao mitica Lara, dice oggi le frequenze fanno un po' le bizze dalle mie parti, ma finché ce n'è facci sognare, guarda io ce la metto tutto, la programmazione è sempre questa, quella di Rock FM. Tra l'altro c'è Luigi che mi chiede per registrare le notti cosa bisogna fare. Luigi, non vorrei sembrare non vorrei che insomma che sembrasse che sto facendo dell'umorismo di patata, si dice quando dice una battuta del cazzo, bisogna avere qualcosa che registri perché in realtà comunque io vi dico, io le registro, poi vediamo, insomma adesso vediamo come, non potrò farci niente, però io le registro, che così almeno magari così si può dire, so. Ecco, tra poco i Doors, il Tour de Force e tutto quello che rimane di Rock FM.